cui va benissimo, è come modulazione, la radio, il mic gain va bene, regolato così, o è troppo, dimmi se strappa, insomma, cose del genere, dai. No, è bella la modulazione, è bella, non strappa, non è prepotente, non è bassa, non c'ha nessun coso, è una bella modulazione. Modulazione diciamo amplificata ma regolare. Io ti conosco in verticale, non so la tua modulazione in verticale, la voce, però penso che sia così. Mi. Ciao Natalino. Chi è Natalino? Bubu. Ah, non è Natalino, no. Caspita. Non è Natalino questo, no. Adesso se non ce lo dice lui, non lo conosciamo. Ciao Luca. Buongiorno a tutti e due, perlomeno io ho acceso adesso. E ho sentito voi due. KK. Ciao Luca, buongiorno. Sì, come vai tu la modulazione? Come stai usando? La 06? No, il 14 col Super Sidic. È una modulazione piena, cioè sembra che ci abbia la bocca piena, ma Giulio, tu come l'ascolti? Io l'ascolto bene, no, non c'è problema, ma siamo vicini, tra me e lui siamo troppo vicini, in linea d'aria, non vicini di strada, ma in linea d'aria siamo vicinissimi. Allora, Luca, questo è il mio, finalmente è arrivato a casa. Mi senti bene, sì? Con 10 watt, 10 watt, tondi. Benissimo, bella la sua proprio Giulio. Benissimo, bei picchi positivi hai. Perfetta, per me è perfetta. Sì, anche la tua è perfetta, 9,20, ti stai arrivando in questo momento. 9,20 spaccati a questo Smith. E questo sicuramente è preciso, non è come quello che stavo usando ieri. Che era il barattino, ma era un barattino di Dresden, così si dice a Sassari, però andava bene lo stesso. Vabbè, 10 watt, sottovoce, sto parlando, lontano, adesso sono tutta la lunghezza del braccio, lontano dal microfono, da 60. Va bene, sto contento, ha fatto un bel lavoro quella persona, veramente in gamba. Avanti Franco. Capo. Sì. No, ma anch'io Giulio l'ho ascoltato bene a Luca. Però la voce come. Non posso neanche spiegare com'è. Bella grossa, grossa piena. Allora, ripeto, fra questo è il 14 col Super Sidic. Dimmi se devo regolare dal microfono, posso regolare, guarda un po', vedi un po' adesso se va meglio, peggio, abbassato dal microfono. No, va bene, no, ma come modulazione va bene, è chiara lo stesso, però ti sento più grossa la modulazione, non la solita tua. Forse perché appunto ho messo questo microfono che me l'ha sistemato Francesco, mi ha rifatto il circuito perché me l'hanno mandato non funzionante praticamente, e glielo spedito a Francesco e mi ha rifatto il circuito. Mi ha detto lo metto nel 14 e vediamo un po'. Potenza si ha, aspetta che abbasso perché siamo già a 20. Allora, 10 riportante, fischiato 20, vabbè. Allora va bene questo microfono fra. Questo è il Turner Super Sidic. Sì, va benissimo, ma io non ho detto che tu va bene. Ho detto che non è la modulazione sull'età tua. Basta. Te la trovo più piena, più bombante. Un po' più cavernosa, ma va benissimo, è bellissima comunque. Anzi, secondo me è anche più bella di come l'ho sentito altre volte. È veramente un gran bel microfono, ma bella, bella, bella. Ha fatto un bel lavoro. Ma io allora ti spiego, avevo sentito a Torino con questo tipo di microfono, caspita, ho detto, una bella, bella potente, bella forte come radio, anche se lui usa un altro tipo di radio, no? Però mi è piaciuta come modulazione, ho cercato appunto questo microfono, solo che questo puntini puntini me l'ha mandato rotto. E tu quando gli ho detto, mi ha detto, ma io non ti ho detto che ha funzionato, sì, però i soldi te li hai presi come funzionante, brutto imbecille che non sei altro. Vabbè, e siccome allora l'ha mandato a Francesco e c'era un integrato introvabile, tra l'altro, cioè solo negli Stati Uniti, che costa 50 euro, un piccolo integrato tra spedizione e tutto, mi ha detto, guarda, ti rifaccio il circuito, ti costruisco già lui, e così, e vedrai che va molto molto meglio rispetto anche all'originale. E mi sembra che stia proprio pompando meglio anche rispetto all'originale, credo. Sì, sì, Luca, sta andando bene, come microfono non c'è niente da dirgli, anzi è bella la modulazione, sì, proprio Tonino l'aveva quel microfono lì, con la modulazione così. È per quello che mi è piaciuto con il microfono, capito? Vabbè, c'ho anche il mio BP4, sempre Kenwood, con l'attacco Kenwood. Poi ho venduto l'altro, l'affare proprio venduto, e ho venduto un po' di roba, tanto se non la utilizzi, capito? E senti le campane che suonano. Perché ce l'hai vicino. Avanti, Giulio. Ok. Con quel microfono, cioè la voce tua o Luca, con quel microfono lì hai un po' più di bassi del solito. Ed è per quello che è molto bella. A parte il fatto che è pulitissima, non c'è una vibrazione, non c'è un rumore, non c'è niente. È perfetto. E devo dire che Francesco ha fatto veramente un gran bel lavoro, si è rifatto tutto il circuitino, ha fatto veramente un gran bel lavoro, guarda. Ti posso assicurare che è così. Per cui sono contento che intanto è per te il lavoro che ha fatto. E poi sono contento che lui sa fare queste cose molto bene. Bene, bene, riprendi lui. Breco. Intanto Breco, Robe, un attimo, avanti Luca. Sì, avanti, Robe. Ehi, abbiamo ascoltato qualche minuto a te, a Franco e a Giulio, tutti e tre ben sentiti. Roberto da questa parte. Vai di nuovo Giulio. Ok, ciao Robe. Ciao Robe, sto usando la mia radio. Sembra che va bene, con 10 watt. Sembra più che ultima. Sicuramente ha fatto un gran bel lavoro quella persona. Riprendi. Sì, ti ascolto perfettamente. Il microfono cosa state utilizzando? Il 60, però sono molto lontano, è tutto il braccio, tutta la lunghezza del braccio distante, e sto parlando anche sottovoce. No, segnale 9+20, radio 5 è pulita, la tua radio, la tua modulazione. L'altro è Franco da Sorsa, avanti Franco. Ciao Roberto, almeno ho ascoltato. Sì, sono io. Niente, anche te di essere ascoltato bene. Insomma, oggi stamattina meno male che non c'è tutta quella propagazione che c'era ieri. Avanti Luca. Sì, un attimo, sto facendo un video. Cazzo, vai. Avanti, Giulio. Ok, fra. Sì. Va benissimo, sono contento veramente. Ha fatto veramente un gran bel lavoro. Mi ascolto benissimo, mi ascoltate benissimo, meglio di così cosa devo pretendere? Alla grande, 9+20 con 10 watt, vabbè, è tanto veramente. Ecco il microfono che non è nemmeno molto alto per niente, perché sto parlando sottovoce, da 10 mi arriva più o meno a 40-50 di modulato, niente di più. Però la portante sono 10 watt e basta. E lo superi con i picchi di modulazione, li superi 9+20. Quanto c'è a livello microfonico? Comunque non toccare niente, l'elettricità è perfetta, Giulio, perché ti sto anche guardando, perché ascoltare sei perfetto, non toccare niente, diciamo, di livello, sei perfetto. Guarda quanto c'è il microfono. A1, il microfono è A1, no, non l'ho toccato, l'ho lasciato come me l'ha portato Claudio, che è stato anche molto gentile. che me l'ha portato fino a casa, si è anche scomodato a quello, ha fatto un lavoro completo, imballaggio, spedizione, ricevuto e poi me l'ha portato anche a casa. Si può immaginare che è andata lì, di trafila che ha fatto, e va benissimo così. L'ho lasciato regolato come me l'ha portato lui, non l'ho toccato, comunque uno. No, perfetto, anche il mio è sempre a uno, anzi per essere più precisi un peluzzino di meno di uno e sono circa 40-50 cm dalla mucosa, dal microfono. Tu sei perfetto di livello microfonico. Franco, tu cosa stai usando? Cappa anche tu? Cappa, sempre quello. No, stai andando alla grande anche tutto il segnale, 9-10 con i picchi arrivi quasi a 9-15, a te come ti arrivo io? Tu sei... mi è sembrato 8, provalo di nuovo. 8 addirittura, come mai questa differenza di segnale? Non lo so, è probabile, vabbè, dipende quanto ne stai dando tu e quanto ne sto dando io. Ma tu stai spingendo perché? Allora, sta scaldando piano piano, io ho l'importante nutra, ho 40 watt, poi modulati arrivo anche a 80 watt. Io sono più basso di te, io sono una ventina di importante, poi magari arriverà a 50, penso. Cappa, infatti l'ammasso perché mi scalando troppo, adesso mi sta scaldando, è figlio. Allora, adesso 20 gradi modulati 40. Più o meno come prima, se di segnale 9-10, quasi 9-10, non cambia più di tanto, dai. Ok, vediamo se Luca è rientrato. Luca, ci sei? Allora riprendo io, Luca non è rientrato, riprendo io allora. Sì, ma quando ci sentiamo basta, non c'è bisogno di mettere troppo in basso. Infatti, Franco, infatti prima che tu abbassassi adesso, il segnale tuo era salito ancora, era intorno ai 9-13, una cosa del genere. Per cui man mano che scaldava, ma è normale, quello che già sappiamo, quando scalda aumenta fin quando non raggiunge la stabilizzazione, e va bene così. E da te Franco, adesso com'è il mio segnale con 10 watt, Franco? Tu la portante fissa sei 9, 9,5 modulati. Ah è ok, buono, caspita. Con 10 watt alla grande, va benissimo. Dipende da me. Però abbiamo molta differenza di segnale con Franco, non riesco a capire. Che antenna c'è tu Franco? Io ho una Motorola Turbo. C'è una differenza di... Tu se ti arrivo 8, stiamo parlando di 10 dB di coso, 10 dB, 10 punti, di un punto S di differenza. Ecco, non lo so spiegare questo, non lo so neanche. Guarda, io... Vabbè, Giulio, io l'antenna, la potenza ce l'avevo così perché quando stavo tarando, l'ho messa a 100, l'ho messa, tanto per tararmi l'antenna, hai capito? Poi mi sono dimenticato di abbassarla. Ah ok, ho capito, infatti. Infatti non è consigliabile, soprattutto col tecnico, ho detto a Claudio che non è consigliabile in AM di spingere troppo perché si può danneggiare il modulatore. Infatti, in effetti è così, è meglio andarci piano. Quando ci sentiamo va bene così, non c'è problema. Bene, vai Robert. Sì, a voi, quando dopo i 9 i segnali la radio 5 va più che bene, non ce ne frega niente di arrivare a 9.40. Anzi, in certi casi quando è troppo forte, quando mi capitava qua per i vicini che erano talmente forti, dovevo attenuarli di 20 dB, se no era tutto sacro, non riuscivo a capire. Ok, Claudio, se senti tu oggi? A Baracchino no, io l'ho visto stamattina perché, come ho detto poc'anzi, mi ha portato la radio sino a casa, stamattina presto, insomma presto, in orario abbastanza accettabile, no? Non me la regalare secchi, no? Ci mancherebbe. Ma per dire, sei anche disturbato a fare quello. Già lo fa per gli amici, si fa questo e altro, non c'è problema, tu il Claudio già è generoso da quel punto di vista. Ok, vediamo se Luca è rientrato. Sì, stavo facendo un po' di robetta. Però mi devo di nuovo sentare Robert. Dammi il controllo tuo dei tuoi strumenti per la radio. A livello di radio è buono, non mi piace la modulazione, la sento molto cupa, ricca di basso, è come se stai parlando con la bocca, con la mano sopra la bocca, ti mancano le tonalità acute, però è chiaro. chiara, capisco tutto, però rimane un po' cupa come radio, cioè molte frequenze medie e molte basse, e acuti no, quasi non ce n'è, come ti stai parlando con la bocca, la mano davanti alla bocca. Magari se peggiora se migliora, boh. Ma c'è il controllo di tono su quel microfono, il segnale se è 9 più 30 da me. È Super Sideric. Ma non ha controllo di tono il Super Sideric. No, ma posso guardare la mic o tramite il microfono e boh. No, a livello microfonico si è perfetto, sta iniziando a lampeggiare il rosso e va più che bene, se non alzi la voce va bene. Ma l'esattore ti carichi molto di bassi e di medi, non ti vedo gli acuti. Ma c'è anche un altro microfono a provare. L'MB più 4. Allora ti ripeto, se ci correggesse questo problema degli acuti saresti perfetto, bella piena, corposa e carica, però gli mancano gli acuti, peccato è quello, però ti ascolto bene, diciamo riesco a capire quello che dici, prova per curiosità un più 4. Che lo cambio. Controllati la capsula che non sia capovolta, perché molte volte rimontando la girano di fianco e perdono le tonalità, perché gli acuti sono molto direttivi, per cui se c'è la pena rovesciata perdi tutto, perché è già successo altre volte su MB più 4 e più 5, quando lo montavi si mi girava la capsula, per cui perdeva tutto. Sì, può succedere, Robert, può succedere. No, sai cos'è? Quello lì è il super sideri kick. E lui l'ha comprato ed era guasto, non funzionava, e l'ha mandato fuori da un amico e gli ha fatto il circuito nuovo, praticamente adesso ha un circuito tutto originale, diverso da quello che è il vero Sideri Kick, capito? Ed è per quello che è così, però è chiarissima, la cosa a me piace, la verità, a me piace molto, è una bellissima radio, bella, corposa, proprio abbastanza pulita tra l'altro. Vediamo se è rientrato Luca, avanti. Sì, allora, questo è l'MB più 4, questo è a metà. Allora, MB più 4 è più ricco di medi rispetto all'altro, c'ha proprio il palettone, i picchi ce li hai sui medi, cioè è un po' attenuati i bassi e gli acuti rispetto all'altro, l'altro invece erano più evidenziati i medi e i bassi, è 0-0, nel senso attenuati gli acuti, più o meno, però era meglio l'altro microfono era meglio. E Giulio, io lo sto ascoltando con un altoparlante esterno discreto, diciamo, e poi lo sto anche vedendo, ma con l'altoparlantino dell'apparato non si nota molto questa differenza. Ripeto, la modulazione è chiara, però se vogliamo essere scrupolosi e pignoli, appena di carenza di acuti, solo questo vuol dire, per il resto si capisce, la radio non è distorta, è pulita. Sì, ma questo sì, sicuramente no, infatti glielo ho detto poc'anzi a Luca, che gli ha modificato la sua timbrica vocale, gliel'ha modificata perché Luca ha, bene o male, ha la voce come la mia, e cioè con toni più alti che bassi. Allora, che cosa è successo? Con questo tipo di circuito che le hanno fatto, quell'amico lì, che ritengo bravissimo, visto che ha fatto un bel lavoro, gli ha modificato la timbrica, ma quello dipende dal circuito che ha fatto, per cui è bello, a me piace la verità, sì è vero, non ha toni alti, diciamo che i toni alti che aveva lui, che ha lui di se stesso, gli ha rubati il microfono e gliel'ha fatto più corposa la modulazione, questo senz'altro. Ecco, poi riprende e fai girare poi, vai. Sì, no, guarda, stiamo facendo delle cose, l'avrebbero voluto un sacco di gente, non prendiamola come un'offesa la cosa che sto facendo io, la valutazione, è soltanto una considerazione per essere proprio pignoli, però va più che bene, la radio, molti l'avrebbero voluta una modulazione del genere. La tua, confrontata con la tua è un pochettino più lineare come modulazione, Giulio, c'hai le tonalità, ce le hai più lineari, non hai picchi di tonalità, nel senso più medio, più alti, tu sei abbastanza lineare come modulazione. Lui, ripeto, l'unico problema, se avesse appena un peluzzino di acuti era spettacolare con la modulazione. Sì, vabbè, ho capito. Vedi, se io dovessi cambiare le microfono, metto anch'io l'MB2-4, una piccola differenza c'è, non tanto, però una piccola differenza c'è, perché quando metto l'MB2-4, che me l'avevo fatto io l'adattatore, lo spessore adattatore, l'avevo fatto e l'ho usato anche per molto tempo, invece oggi ho messo direttamente il 60 e questo ha più toni alti, ma se metto il 4 mi modifica piace che anche a me un tantino, ma non più di tanto però, però una puntina di più di bassi c'è. Va bene, dai, facciamo diretta a Franco che sta mai da un po'. Vai Franco, scusa. Anche io poco fa, a me come modulazione sì, è chiara tutto, però non piaceva, non mi piace per quel motivo lì, perché come ha detto anche Roberto, gli ha cambiato tutta la modulazione quel microfono, però è chiaro, cioè non è che non sia buona la modulazione, anzi, è bella, comprensibile, chiara. Sto aumentando così le mie di più corto? No, adesso ti sento un po' distorto, riprova a parlare. Allora, adesso aumentando così le mie di più 4. No, anzi dovresti diminuire. Allora, adesso l'ho messo a 7, guarda a vedere. Così un po' impastata, ecco questa, è molto medi, c'è molto ricarico di medi questi, stai caricando molto i medi. Così a 5. Ma la MV4 non ha controllo di tono, cioè tu stai solo abbassando l'amplificazione, prova un pochettino a abbassare ancora un po', vediamo se cambia ancora la risposta. Così a 2,5. A 9? No, abbassa un bel, c'è un bel alto come Luca. No, 2,5. Non ho capito, cosa hai detto? 2,5. Allontanati dal microfono però. Sono sempre la stessa distanza, così a 1. No, non è chiarissima la cosa, la radio. Allora era così giusto, a metà. Sì, migliora, però rimane, ti ripeto, è molto molto ricca, sembra che sei un po' barattolosa l'accento. È il classico dell'MB. Sto abbassando la radio adesso. Ecco, vedi un po'. Prova a parlare adesso. Così è sotto, vabbè, a 1 praticamente il mic-in della radio e a metà il microfono. Allora adesso hai migliorato tantissimo, vedi la cosa, il difetto di questi tipi di microfoni, al contrario del Tanner, che se tu alzi col Tanner non ti cambia la risposta in frequenza dell'emissione. Questo qua come abbassi ti corregge anche un po' la tonalità. Come alzi ti cambia anche le tonalità, cioè non ha un circuito lineare di amplificazione, per dire ti spara troppo i medi e ti diminuisce i bassi o viceversa. Quando abbassi un pochettino te la corretta la tonalità, adesso vai molto meglio. Perché dovrebbe cambiare anche col Super Siri, capito? Adesso è a 7, chiudo la porta, così ripeto, è a metà e metti a 1. Aspetta che adesso rimetto il Tanner. Ha migliorato, però ti ripeto, rimane un po' ricca di medi, un po' barattolosa. Il Tanner, se avesse avuto quel problema risolto degli acuti, era una modulazione da spettacolo. Sì, può darsi che mettendo magari l'MB più 5, che ha anche i toni, può darsi che possa anche andare meglio. Però adesso sta dicendo bene Luca, che prova a mettere di nuovo il Tanner, mettendo, cioè toccando il mic gain della radio, e quello toccando quello non ha fatto le prove. Vediamo un po' Luca, non c'è, vai Fra. È probabile che regoli molto meglio, però la mia BG4 proprio non mi piace per niente, sta risposto impattando. Infatti non si sentiva molto bene, la MB4 era forte, però non era buona la modulazione. Infatti quando ha fatto quella regolazione, che ha messo a 1 il mic gain della radio, allora ha migliorato molto, Però adesso lo voglio sentire come appunto stava facendo, voleva fare lui, col Tanner, facendo a 1 e più il Tanner. Vediamo, Luca ci sei. Giulio, tu processore naturalmente è inserito. Sì, c'è un processore, sì. Aspetta che provo a toglierlo che si abbassa molto. Aspetta, dov'è? Eccolo qua. Adesso è bassissimo. Ci sono, ci sono. Aspetta un attimo, no, si abbassa parecchio la radio, se no rimane quasi invariata. Vai Luca. Allora, non ho toccato niente dalla radio, ma il mic a 1 della radio, il microfono poco a metà. Questo è il Tanner, così? Questo è il Tanner, sì. Guarda Luca, se avesse quel pena pena di acuti è una delle più belle radio, va bene, più che bene, però se vogliamo essere più nudi c'ha quel piccolo lì. A quanto l'hai messo? Prova a parlare. Aspetta, ti parto così a 4. È rimettilo come era prima, scusa un po'. Così a metà, vedi un po'. Ma tu stai regolando la radio o il microfono, non ho capito. No, il microfono. Prova a parlare, questo passaggio mi sembra migliore. Così a metà, vedi un po', adesso te lo metto a 7. Adesso a 7, vedi un po'. 7 è troppo alto, abbassa un po'. E allora a metà secondo me va bene, poi si può regolare il machine. Lascialo così, va, è la posizione migliore, va più che bene, dai, non toccarlo. Hai migliorato un bel. Ok, un attimo, che mi sono chiamato. Confermo, ha migliorato moltissimo. Prova a togliere del tutto il machine della radio, Luca. No, c'è allontanato. Però ha migliorato, da poco fa adesso ha molto migliorato, adesso si capisce che anche lui, che la sua modulazione, la sua voce. Sì, ha migliorato, infatti è solo una questione di regolazione, ma quello lo dobbiamo dire noi, come lo ascoltiamo e poi lui regola e così la prossima volta sa che si deve sintonizzare in quel modo. Sì, adesso ha migliorato moltissimo, io la voglio, avanti Roberto. Ehi, ma Giulio, tu l'autoparlante di linea non te lo sei mai preso? No, non ce l'ho, non ce l'ho mai avuto. Perché se lo ascolti con l'autoparlante esterno cambia completamente la modulazione, perché quando c'è con l'altoparlantino poi messo sopra l'altoparlante originale, parlo, ti carica un pochettino di acuti e di media e non senti però le altre tonalità, un po' ti inganna quando fai si fanno i controlli. E poi dico, se anche se c'era un altoparlante anche di impianto stereo, però che di quelli piccolini, di computer, cose del genere, vedi che riesci ad ascoltare anche molto meglio. Sì, ne ho tante, ho diversi altoparlanti di radioni, sai, quei radioni che avevano gli altoparlanti che si agganciavano uno a una parte o all'altra, ne ho diversi di quelli, ma non ho mai pensato di utilizzarli, ascolto sempre direttamente dalla radio. Sì, no, vabbè, naturalmente va bene anche così, però dico, se vuoi avere magari una migliore fedeltà in ascolto, soprattutto poi quando vuoi ascoltare in base radiata amatoriali, in base laterale, vedi che ti cambia un po' completamente la tonalità, riesce il fluscio un po' te l'attenua, riesci un po' a cosa. Questo io sto ascoltando con l'SP940, che c'ha anche i filtri, c'ha tre filtri quell'altoparlante lì, e ti posso dire, confrontato ascoltando senza niente è un abisso. Sì, ci credo, certo, beh, evidentemente ce l'hanno fatto, perché vuol dire serve a qualcosa, no? Certamente sì, non solamente per l'estetica, per la figura, eccetera. Va bene, proverò anche a mettere uno di quelli, solo che hanno un attacco diverso, non hanno lo spinotto normale, dovrei cambiare lo spinotto, perché hanno quel attacco N, no? Capito? E dunque non mi vanno bene per il baracchino. Dovrei cambiare lo spinotto, ma uno già lo modifico. Avanti Franco. Quelle colonnine lì della linea costano un po', anche usate. Quelle costano, il minimo che la trusi 80 euro. Sì, quella io sono il CP23, è più che il piccolino di linea del 440 e del 680, anzi del 450, il CP23 e del 450. E poi c'ho quella di linea del 940, quella del CP940, ma è 4 volte tanto. Quella lì, come hai detto tu, le trovi un'ottantina di euro, se sono in buone condizioni, se no anche di più. Quella del 940, chi sa, costa un bel di nata, perché è bella grossa, è enorme. Un mini jack piccolino mono metti dietro, costa 3 lire, che non è un solo l'avrei dato io, un cavettino tipo cuffia però mono, e così lo metti dietro, lo sbucci e glielo metti dove c'è l'attacco, la connessione del dietro, se ne sto parlando. Sì, beh, quello sì, senz'altro, ma forse ho anche il cavo adattatore con lo spinotto che va bene per il baracchino e poi l'attacco RC. E dunque forse ce l'ho con l'adattatore, sì, che senza nemmeno toccare lo spinotto dell'altro parlante. Bene. E mentre invece la sigla del 440 com'è? L'altro parlante di linea del 440 com'è la sigla? Non so se c'è l'SP20-22, perché l'SP23 sono identici, perché io devo scambiarlo con una persona, lui c'ha il 450 e ce l'è nero, l'altro invece rimane quella specie di grigio militare, quello del 440, ma sono identici, adesso non mi ricordo se hanno la stessa sigla. va pure, perché uno è nero e l'altro è grigio scuro. Con la 940 invece è l'SP 940, ma è molto più grande, più profondo, è molto più grosso, c'è un altoparlante grande, puoi collegare due radio perché c'è A e B, e più c'ha tre filtri alti, bassi, c'ha due filtri per gli acuti e un filtro per i bassi, e poi davanti puoi attaccare anche la cuffia perché c'ha il connettore per la cuffia. Oh Giulio! Sì, mi Franco mi sembra che ce l'ha un altoparlante così che appunto elimina addirittura il QRM, vero Franco? Ma quella è quella che ho preso nella Fayette, quella piccolina, sì, ma è tutta diversa dall'SP430, io ho l'SP430 della linea della Cable, e come dice Roberto, che cambia la modulazione dalla colonnina normale alla colonnina esterna, cambia un bel. E niente, io ho sempre usato l'SP430. Sì, l'SP430, hai detto bene, non mi ricordavo. No, ma va bene. Anche se prendi una di quelle piccoline che ci sono, che costano, quanto costeranno? 13 euro, 14 euro. Quelle lì, che hanno anche i filtri, tipo quella che ne ho io, della Fayette. Quella lì, io la ascolto bene con quella lo stesso. Solo che quando chiudo tutti i filtri si abbassa un bel. Ok, ho capito. Va bene, adesso tento di farlo da uno di quegli altoparlanti dello stereo, anche perché ne ho anche di più, che non mi servono nemmeno per lo stereo. Va bene, dai, proverò a fare questa applicazione, vediamo un po' se migliora, anche se mi prende un po' più di posto, però non è così grave la situazione. Ti prendi? Luca, sei rientrato? Vai, Roberto. Però lo sai quale vanno benissimo? Che io, siccome ne ho uno, due, tre, quattro di questi pannelli di altoparlante, diciamo, per diverse radio, dai. E quelli dei Dolby Surround, cioè presente i canali satelliti, cioè su WWW c'è il canale centrale, è grande, e poi ci sono quelli più piccolini per i canali laterali. Quelli lì vanno più che bene, che hanno l'impedenza a 6 ohm, per cui se tocca anche un po' di più. E ti posso dire che ci sente abbastanza bene anche con quello. Dalla Sony io ce li ho. Ah ok, e se no sai cosa, io addirittura ho due altoparlanti proprio d'accordo, io credo che siano buffer se ricordo bene, e ce li ho in magazzino, ce li ho, e quasi faccio una cassettina e ci metto dentro quello e provo con uno di quelli, che è un buffer di autoradio, me l'aveva dato un amico, me l'aveva dato perché lui quando ha comprato la macchina ce l'aveva già di Siri nella macchina, dunque dalla macchina vecchia che aveva, lui li aveva tutti pensando che magari non ci fossero nella macchina nuova, invece c'erano, c'era, e quelli li ha regalati a me, ne ho due, mi sembra che c'erano proprio due woofer se ricordo bene. Ok, un attimino al telefono, scusate un attimo. Vedi, te la puoi fare anche tu sai, te le sai fare le cose in legno, cose così, di quel legno un po' sottile. Tanto, ci metti anche una colonnina dentro, anche di una radio, di un coso, ma permettere di guardare le impedenze come sono e pesce bene lo stesso. Sì, beh certo, quello sì, no, ma le impedenze già le correggo io, non è un problema. Le impedenze le posso correggere, per quelli sono un maestro. Per gli altoparlanti, per i microfoni, le impedenze io le posso correggere, esistono le resistenze, esistono i condensatori, per cui filtrarle bene non c'è problema. Sì, pensandoci bene, quasi faccio una scatoletta così e provo a vedere se esce una bella modulazione o se rimane sempre uguale. Sì, no, dovrebbe uscire bene, uguale non esce, esce di sicuro meglio. No, io, guarda, se stacco appena la colonnina è finito, e ascolto anche male, a volte non capisco niente le modulazioni, invece con la colonnina esterna è tutto diverso. Ok, ho capito, va bene, ci proverò, faccio una cassettina, il multistrato, così non vibra, e vediamo un po' come funziona. Ecco. mi assicuro va molto molto meglio. E col K ci vuole, oh vabbè, io questa qua, la colonnina, la uso anche sulle altre radio, esce bene lo stesso. Sono rientrato io. Riprendi allora, vabbè, vai. Sì, dimmi una cosa, come ti ascolti invece Giulio? Tu quando ti vai a ascoltare, con cosa ti ascolti? Con le cuffie, ho l'altra radio vicino, metto la cuffia nella radio, una cuffia abbastanza buona, ma cambio canale, cambio per non disturbare sul 10 che è il canale monitor nostro, e mi ascolto lì e mi regolo il mic gain della radio, me lo regolo, ma comunque ormai lo so già com'è, basta guardare il segno, lo metto a 1 e so già che va bene così. E non ti rompa? Devo utilizzare il volume della seconda radio, della radio che ascolto, o lo devo utilizzare basso, se no ti spacca le orecchie anche la fischia quando aumenti troppo il volume. No, non parlo di fischiare, io parlo l'altra radio, tu sai che il coso l'antenna, se no cacchio, entra troppo forte, ti sposti su un canale per dire che non disturbare, te ne vai su 30, 40, ma l'importante è ti ascolti, ti fai le prove di regolatore, non senti rumore di rientro, di radiofrequenza. No, perché il volume lo tengo basso, no? Lo tengo basso, essendo in cuffia, tengo basso il volume, e se no guai, incapita. Se aumento allora inizia a fischiare, cioè inizio a sentire io il fischio, non è che fischia la radio, inizio a sentire io il fischio, l'innesco là, ma tenendola col volume, infatti prima me la abbasso il volume, poi provo e aumento il volume per ascoltare, perché se mi ritrovo col volume troppo alto, come schiaccio la portante, evita di paccare la recce. No, non parlo di effetto Larsen, del fischio, il classico fischio, dico io parlo ronzio, proprio rumore, non te lo senti sotto tu? No, con questo Cobra che ho io, no, io attacco sempre questo Cobra, uso quello per ascoltare. Io dall'altra radio, quella grossa, quella grande, ma lì ce l'ha l'uscita monitor davanti sul frontale, però siccome non ce l'ho a poco, non è che sia molto il contratto, voglio capire come funziona, perché c'è il tratto monitor davanti, la presa delle cuffie e ti puoi ascoltare quello che sta uscendo, però dietro c'è un sacco di tasti e tastini, non ho ancora avuto modo di provarlo. Ho capito, sì, anch'io dietro ci sono delle prese da utilizzare, ma servono per altre cose, ad esempio serve per il tasto del CV doppio, per la registrazione, per il registratore, queste cose qua, ma quelle non le ho mai utilizzate e mai le userò, per cui non lo so come. No, il K, quello che sto utilizzando adesso, c'ha dietro l'uscita, ci sono mi pare 8 o 10 puli, adesso non mi ricordo, la CC1 e la CC2, una di queste uscite io l'ho collegata all'esattore di spettro e a un indicatore di livello e poi a un altro strumento, esco questa uscita che è fissa, il segnale è fisso 200 millivolt, è come quando c'hai una piazza di registrazione di casa e l'attacchi all'amplificatore, questo è un segnale fisso a 200 millivolt, per cui tutte le regolazioni me le faccio usando con la presa dietro del K e l'attacco a questi tre strumenti sono, e mi danno uno l'indicatore di livello, gli altri due lo spettro di risposta di quando parlate, c'è un analizzatore di spettro di cosa? Audio, stiamo parlando di bassa frequenza, non di alta frequenza, e mi dice tutte le tonalità, quello è a quante bande è? A 12 bande uno e l'altro è a 10 bande, e mi dice le tonalità volte, per dire la frequenza, siccome la frequenza di emissione qua in AM da 300 a 3000 Hz la risposta in frequenza, io guardo con la banda di frequenza e ti dico no, tu c'hai troppo alti o troppo bassi, l'indicatore di livello ci sono i decibel, mi dice quanti decibel di attenuazione c'hai su quella banda di frequenza, idem il livello, quando ti dico prova a parlare se sei alto di radio o basso, c'ho una banda che arriva sino a più 18 dB, da meno 12 a più 18, e c'ho dei riferimenti, mi sono calibrato lo strumento e so che quando inizia a lampeggiare il rosso vuol dire che state già iniziando a saturare. Questi sono i miei strumenti di misurazione. Avanti nuovamente Giulio. Ok, scusa fra. Sì, dietro io adesso ho guardato, no, dietro c'è una presa sempre per la cuffia, però anziché essere quella grossa come quella che c'è davanti nel frontale, quella là è piccola per le cuffie, da 3,5. Questa di davanti mi sembra 5-6 mm di diametro. Poi c'è la cosa per il Vox, c'è, poi ci sono, c'è un'altra presa che c'è scritto ANT, probabilmente antenna ausiliare, non lo so, forse per quando magari uno va in fuga fuori o quando si mette in macchina, io non lo so a cosa serve quella, probabilmente così, non lo so. Dunque ci sono diverse imprese, poi c'è una presa con più filotti che quello lì serve sicuramente per la registrazione, infatti c'è scritto REG. E dunque così, ma io tutte quelle cose lì per me è come se non ci fossero, perché non le ho mai utilizzate, mai li utilizzerò. Non ci ho chiarato robe. Dai, facciamo entrare prima Franco, dopo casomai mi dà la risposta. Avanti Franco. E intanto potete parlare, non è questo il problema, Giulio. E allora quello signorato mini jack da 3.5, quello dove c'è scritto SP, quello gli vuol dire speaker esterno, speaker, ci può attaccare all'altoparlante esterno, poi c'hai un altro spinottino che lo puoi utilizzare per il coso, per il, come cavolo si chiama, per il cibo doppio, e poi ci sono queste due prese ACC1 e ACC2 che sono punti, mi pare 8 poli, adesso mi ricordo, io di quella non mi ricordo se ho usato la CC1 o la CC2 e ci sono 8-10 poli, ci sono dei piedini, ho dovuto comprare il cavo proprio per questo tipo di radio perché non è facile da trovare, l'ho ordinata apposta, ne ho comprato due e di lì ho utilizzato due piedini dove mi danno una tensione fissa di 200 mV, di lì puoi attaccarci l'oscilloscopio o analizzatori di spettro, qualunque strumento di laboratorio, oppure un frequenzimetro ti dà la frequenza di trasmissione o di ricezione, e io in quell'uscita lì l'ho collegata a questi strumenti che ti ho detto io. Avanti a te di nuovo Franco, cosa mi stavi dicendo? No, niente, stavo dicendo di continuare a parlare, se volete parlare, non è un problema, intanto sto facendo una cosettina qua io. E vai giù tu allora. Ok, poi c'è un'altra presa che c'è scritto Dede, cioè, non so cosa serve quella, anche quello, perché Dede c'è anche qui davanti, se ricordo bene, vediamo un po'. Sì, forse sì. Boh, non lo vedo. No, non lo vedo qua. Vabbè, c'è anche quello, insomma ci sono diverse cose dietro, ma ripeto, c'è una cosa per il Vox, tutto lì oro. Sì, di lei è sempre per il CV doppio, è la velocità, la velocità di battuta, si regola la velocità. Ho capito, sì, infatti come ce l'ho nel microfono, microfono che è il coso, l'Echo Master Plus, che dietro, cioè dietro nella tastiera davanti c'è anche delay che serve per la profondità dell'eco, perché ha anche l'eco quello, infatti delay serve per quello, per la profondità. Vai Franco. Ma Luca è andato via? Io l'ho lanciato poco fa, non ho ripreso. Luca ci sei? O giù, dai, fate voi, io chiudo, vai, che sto facendo cosa e non lo posso mollare adesso, ci sentiamo, vai. Ciao Roberto, ciao Giulio, magari più tardi. Ok, d'accordo, Fra, ci sentiamo, dai. A stasera eventualmente ci sentiamo, ciao ciao, buon pranzo quando lo fai. E grazie per la chiacchieratina e stamane, dai. Avanti Roberto. Ciao Franco, ben sentito, come al solito, lei anche io qualche minuto, tra poco vado a mangiare, dai, ci sentiamo alle prossime, di nuovo riprendi tu Luca, Luca, scusa Giulio. Sì, ok, va benissimo, dai, comunque tutto a posto, no? non mi stai sentendo sempre bene come dall'inizio, Roberto, non c'è problema, no? Adesso, vabbè, cosa dici, a provare anche in FM? Va bene in FM, ti ascolto perfettamente io Giulio, prova in FM, dai. Aspetta, credo che devo togliere il coso per l'FM, credo che devo togliere il processore, credo, comunque adesso provo. No, lo puoi anche lasciare il processore giù. No, Roberto, no, non posso perché devo andare in sintonia continua e non è sintonizzato, dai. Prima ce li avevo sintonizzati, adesso me li devo sintonizzare. Dai, schiaccia WFOM e poi te ne vai in sintonia continua. Sì, quello sì, lo so, Robè, però sono sulla banda dei 40, per cui devo tornare indietro, devo mettere la 28 e scendere sino ai 27.075, per cui ci vuole un po' di tempo. No, va, prova, non c'è problema, quando sei pronto me lo dici. Ok, d'accordo, aspetta dopo.